bolano son so amma mia mondo se la fe male ama munda ngomba son so amma mia mondo se la fe male ama munda ngomba Yeah, I'm